Allora, secondo Platone, l'uomo una volta era così, come questa mela. Perfetto. Bastava se stesso ed era felice. Non c'erano distinzioni fra uomini e donne. C'erano soltanto questi individui perfetti e felici. Solo che un giorno, Zeus, che era geloso della loro perfezione, e da quel giorno l'uomo ha cominciato a cercare disperatamente la sua metà, perché senza di lei si sentiva incompleto, infelice. Solo che per quanti tentativi facesse, non riusciva mai a trovare la sua metà esatta. E non ce la fa tuttora. No, perché praticamente è impossibile trovare la propria metà e riconoscerla. Ci vorrebbe un miracolo. Ragazzi, avete fatto piangere con Manzoni e con Dante. Vediamo di andare ancora più indietro. Vediamo di trovare un qualche tipo di dialogo che sia un po' più antico rispetto a quelli che abbiamo fatto e in qualche modo forse più facile. E così, cercando, avrei trovato Platone, e quello di dialoghi ne ha scritti parecchio. Il dialogo che mi pare più indicato per farvi leggere, poi solo Dio saprà come lo leggerete, è un dialogo tratto dal Gorgia, il Gorgia di Platone. Tutti sanno chi era Gorgia, no, nessuno lo sa, in realtà era un sofista, cioè uno di quelli, una specie di Sgarbi, ecco, uno di quelli che, mutatis mutandis, andava in televisione e a pagamento diceva tanto bene di A come bene di B o tanto male di A come male di B. L'importante è che lo pagassero. E in particolare dal Gorgia abbiamo tratto un dialogo tra Socrate e un certo Polo, che non è l'inventore delle caramelle col buco. Polo era anche lui un retore, anche lui un sofista, forse non Sgarbi, diciamo Leone di Lernia. E Polo intrattiene con Socrate un discorso sull'ingiustizia. Beh, allora, presentata così, io mangerei un Polo. Vuoi fare il Polo? È uguale, è uguale. E Socrate è una responsabilità. Tanto faremo comunque schifo, sì. Quindi non cambia niente. Si gioca, facciamo a carta. Si gioca alla morra cinese. Dai, su, andiamo. Forza, andiamo con questo dialogo. Dimostriamo che saremo pronti per il nostro spettacolo. Di sicuro. Polo, che sarà uno dei protagonisti del dialogo, ve lo ricordo, era di Agrigento. Quindi, minchia ciccio! Allora se lo fate come riesci. Il dialogo ci posso provare! Il dialogo si intitola Il fare ingiustizia è più brutto che riceverla. Chi fa Socrate e chi fa Polo? Polo lo fa. Polo faccio io! Io faccio Socrate. Invece io dico che non è possibile. Questo è un punto su cui non siamo d'accordo. Ebbene, chi commette ingiustizia sarà felice qualora sconti la pena della sua colpa e sia punito? Per nulla affatto. In tal caso sarebbe, anzi, infelicissimo. E qualora l'ingiusto non sconti la pena della sua colpa, secondo il tuo ragionamento, sarà felice? Io sostengo di sì. E invece, secondo il mio modo di vedere, o Polo, chi commette ingiustizia e chi è ingiusto è infelice in tutti i casi, ma è certo più infelice se, commettendo ingiustizia, non sconti la pena e non venga punito, mentre è meno infelice se sconta la pena della sua colpa ed è punito dagli dèi e dagli uomini. Dici assurdità, Socrate! E cercherò di fare in modo, carissimo, che anche tu dica le medesime cose, perché ti ritengo un amico. Per ora le cose su cui siamo in disaccordo sono le seguenti. Fa attenzione anche tu. Io ho detto in precedenza che il fare ingiustizia è cosa peggiore che il riceverla. Sì! Tu, invece, che è cosa peggiore il riceverla. Sì! E ho pure affermato che coloro che commettono ingiustizia sono infelici e sono stato confutato da te. Sì, per Zeus! Perlomeno tu lo credi, Polo. E credo il vero! Forse, invece tu hai affermato che sono felici coloro che commettono ingiustizia se non scontino la pena. Certamente! E io invece sostengo che costoro sono infelicissimi, mentre coloro che scontano la pena lo sono di meno. Vuoi confutare anche questo? E davvero quello è più ancora facile! Davvero questo è ancora più difficile da confutare di quello, o Socrate? Niente affatto più difficile, Polo. È impossibile, perché la verità non si confuta mai. Che cosa dici? Se un uomo viene sorpreso mentre cerca di impossessarsi del potere con mezzi ingiusti e dopo essere stato arrestato, viene torturato e viene mutilato, abbacinato e dopo aver sofferto molti altri atroci tormenti e viene visto i figli e la moglie soffrire i suoi stessi tormenti, da ultimo venga impalato e bruciato cosparso di pece, ebbene costui sarà più felice che non se, sfuggendo alla pena, riuscisse a diventare tiranno e restare per tutta la vita al potere della sua città, facendo ciò che vuole, invidiato e considerato felice dai cittadini e dagli altri forestieri? Tu sostieni che queste due affermazioni non si possono confutare. Ho fatto più napoletano e siciliano. E ora mi fai lo spauracchio, nobile Polo, ma non mi confuti. Invece prima citavi dei testimoni. In ogni modo, ricordami un particolare. Tu hai detto, se cerca di impossessarsi del potere con mezzi ingiusti. Sì! Allora, più felice non sarà nessuno dei due, né colui che si sia procurato ingiustamente il potere, né colui che sconti la pena, perché tra due infelici nessuno può... Mannaggia. Perché tra due infelici nessuno può essere più felice dell'altro. E tuttavia colui che è sfuggito alla pena è più infelice. Che fai, Polo, ridi? E forse un altro tipo di confutazione, quando qualcuno ha detto qualcosa, rispondere col ridere e non confutare? Ma non credi di essere già confutato, o Socrate, dal momento che dici cose che nessuno degli uomini oserebbe dire? Prova a domandarlo a qualcuno dei presenti! Polo, io non sono un politico e lo scorso anno, quando fui scelto come membro del consiglio, in quanto era toccata alla mia tribù, la... Britannia? Cazzo, boh! Lo rifò da capo, eh? Che cazzo è? La Britannia? Britannia. Boh, sarà Britannia. Se è Britannia, se no aveva l'accento sulla E. Sì. Polo, io non sono un politico e lo scorso anno, quando fui scelto come membro del consiglio, in quanto era toccata alla mia tribù la Britannia e dovendo io dirigere la votazione, feci ridere e non seppi cavarmela. Perciò non esortarmi ora a far votare i presenti, e se non hai un modo migliore di questo per confutarmi, come dicevo poco fa, cedi a me il turno e cerca di capire come io credo che si debba confutare. Infatti, a favore delle cose che dico io so portare un solo testimone, ossia la persona alla quale rivolgo il discorso e lascio andare tutti gli altri. E uno solo lo so portare a dare il voto, mentre con i molti non discuto neppure. Vedi dunque se sei disposto a cedere a me l'iniziativa di confutare rispondendo alle mie domande. Infatti credo che io e tu e tutti gli altri uomini riteniamo il fare ingiustizia cosa assai peggiore che riceverla e il non scontare la pena cosa peggiore che scontarla. E io invece sostengo che né io né alcun altro crediamo questo, ma tu preferiresti patire ingiustizia che farla. E anche tu e tutti gli altri. E ci mancherebbe altro, ma né io né tu né nessun altro. Allora non mi vuoi rispondere? Certamente, infatti desidero proprio sapere cosa dirai. Dunque, se lo vuoi sapere, dimmi come se ti interrogassi da capo. Quale male ti sembra peggiore, Opolo, fare o ricevere ingiustizia? A me riceverla. Ed è più brutto il fare o il ricevere ingiustizia? Rispondi! Il fare ingiustizia. Beh, diciamo che certi dialoghi parlamentari di oggigiorno, quelli che si guardano su YouTube o sul satellite, sono molto peggiori di quelli che voi avete attualmente fatto. D'altra parte, se così leggete Platone, è comprensibile capire Nietzsche. È per questo che Dio è morto. E si è fatto un po' le macchiette. Sembrava un po' una cosa da avan spettacolo. Ecco. Da Grigento, quest'altro fa Socrate, Dio Bono. Insomma, via. Sì, ma no, dell'Agrigento dei tempi della scuola siciliana. Siamo già al 1200. Qui parliamo di almeno 2000 anni prima. E non è che c'era quello con lo scacciapensieri. E Franco e Ciccio sono del 1900. E vabbè, ci saranno stai anche a loro uguale a Franco e Ciccio. Ci sarà stai Mari Poppi. Anche loro a qualcuno si saranno ispirati, magari inconsapevolmente. Magari a Polo e Socrate. E magari proprio a loro. Che eresia. Chi lo sa. Tutto è possibile. Il buco con il vuoto intorno andrebbe fatto a voi.